essere. Prova, nostro, prova. Penso che è colpa dei cellulari, perché se uno avesse. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla galleria San Lorenzo in centro di Montevarchi e ringraziando come sempre Stefano Neri per la concessione di questi spazi. Fumino, questa sera abbiamo un ospite che è stato calciatore, che è attualmente allenatore dei settori giovanili, ma soprattutto è un montevarchino doc. Esattamente, Julian, l'ospite di stasera è tutto questo e soprattutto è un montevarchino doc. La sua storia inizia fin da piccolo con la maglia rossoblù, per essersi conclusa svariati anni dopo e con svariate esperienze alle spalle, tra cui anche fra i professionisti in Serie C, di nuovo a Montevarchi da vincente, perché ha fatto parte di quelle squadre, di quelle formazioni che hanno contribuito alla ripartenza dell'Aquila nel mondo del calcio. Non lo abbiamo detto, ma il regista di stasera è fresco fresco di statuetta dalla notte degli Oscar, ci ha raggiunto da Hollywood praticamente da pochissimi minuti, Guillermo del Toro, grandissimo regista che appunto è fresco di statuetta, che abbiamo qua sul tavolo con noi. E l'ospite di stasera, bando alle ciance, è Francesco Pasquini. Buonasera Francesco. Buonasera a voi e ciao a tutti. Senti Francesco, ti faccio la prima domanda partendo penso più o meno dalla fine, perché si parlava in serie di presentazione della partita. Te sei quello che pensò la maglia con scritto Nana e Rocchini, siamo montevarchini, per festeggiare la tua ultima promozione in maglia rossoblù, credo. Raccontaci un po' com'è nata questa idea e l'emozione di quel giorno anche. Tutto è nato, diciamo, dal fatto che oltre ad essere giocatore, diciamo, sono stato anche tifoso del Montevarchi. Quindi comunque andavo a vedere la partita in curva, mi sono sempre piaciuti molto i cori, e ogni tanto invece che cantare canzoncine io canto cori, fischietto cori, e niente, quindi anche nello spogliatoio ero, diciamo, un po' quello che ogni tanto quando c'era da festeggiare lanciava il coro. E quindi niente, per l'occasione della vittoria del campionato, per Cortona, l'ultima partita della prima categoria, mi venne in mente di fare questa maglia, che poi ho riutilizzato anche quando abbiamo vinto il campionato di promozione, quindi diciamo una maglia a cui tengo molto e che tengo con affetto a casa. Ma a proposito di cori e quindi anche dei tifosi, te che sei stato giocatore e quindi anche tifoso, come ci ha appena detto, quanto incide in campo la spinta della curva? Beh, sicuramente incide tanto, perché comunque quando sei in un momento di difficoltà durante una partita, avere comunque gente che fuori ti incita dal primo fino all'ultimo minuto è sicuramente un'arma in più. E quindi ben venga quando c'è tanta gente allo stadio, anche se qualche volta ci può scappare qualche fischio, perché comunque il tifoso è esigente, ma comunque sappiamo che noi andiamo in campo, diamo tutto e per rendere felici anche loro soprattutto. Abbiamo detto appunto che i cori, gli incitamenti che vengono dalla curva o comunque dai settori dello stadio da cui arrivano sono importanti per un calciatore, e giustamente tu hai detto che a volte i tifosi, essendo esigenze, fischiettano, contestano, fanno qualche urlo. Ma quando succede questo invece dei cori e dei canti, comunque vi sprona per cercare di fare meglio quando stai giocando, o comunque ti succedeva quando giocavi, oppure ti abbatteva di più? Il fischietto comunque a volte, la tra virgolette, quando sbaglia qualche cosa ci può stare, e può essere anche un motivo di per dare qualcosa in più, perché forse magari in quel momento stai sbagliando un po' troppo. Comunque io sono anche dell'idea, quando uno è in campo poi comunque deve mettersi i tappi e pensare a giocare, però sicuramente avere gente che comunque ti aiuta, anche appunto come dicevo prima, in determinate fasi della partita è una bella spinta. Può succedere magari come alla fine sei in svantaggio, recuperi una partita, comunque ti manca quel minimo di forza per magari sorpassare l'avversario, e allora quella può venire veramente dall'aiuto del pubblico. Appunto per questo, legandoci ai tifosi, ora andiamo un po' fra mito e leggenda, fra teorie che a Montevarchi, come probabilmente da tante altre parti in Italia, si raccontano. Tu hai giocato in delle squadre stellari per la categoria che facevate e avete vinto campionati, diciamo, con una certa facilità, anche se qualcuno ha sostenuto che il fatto che la curva fosse proprio in quella posizione lì, piuttosto che magari dietro la porta, vi abbia magari frenato un po', e che se la curva fosse stata proprio più vicino al campo, addirittura appunto dietro la porta, quella squadra stellare avrebbe veramente fatto le scintille. Secondo te è vero oppure sono solo dicerie? No, diciamo sono anche belle dicerie tra virgolette, perché comunque avere la gente vicino fa star bene, insomma, chi gioca, fa star bene il giocatore, perché comunque lo rende giocatore anche in categorie minori. E quindi sicuramente più la gente è vicino e più senti quell'affetto e quella carica che ti può dare. E comunque diciamoci la verità, in ogni modo le buche in terra e la squadra le faceva lo stesso, perché comunque i campionati si vinsero in maniera piuttosto agile, se non mi ricordo male. Comunque te, riallacciandoci a questo e riallacciandoci anche a quello che potrebbe essere una nuova era del calcio montevarchino, chissà, la curva o comunque il pubblico più vicino al campo potrebbe essere questione del futuro, te comunque nella tua vita di montevarchino e di tifoso e di pulcino o comunque di giovane calciatore hai passato differenti ere della storia dell'Aquila Calcio. Raccontaci un po' quelli che sono stati secondo te i cambiamenti, ancora prima di raccontarci, poi magari dettaglieremo dopo meglio le varie differenti ere o momenti che hai vissuto con la maglia rossoblu. Vabbè, diciamo, io da quando ho fatto tutte le giovanili qua a Montevarchi, quindi sono partito, avevo 5 anni e mezzo, quindi si parla del 92-93, quindi parecchio indietro, anni comunque in cui Montevarchi faceva categorie importanti, e a quel tempo società solida, forte, e niente, poi pian piano sono cresciuto, mi ricordo verso già gli esordienti giovanissimi, già c'erano già problemi in società dall'anno del centenario, e comunque già si iniziava a vedere qualche scricchiolamento, perché ogni anno era sempre un po' un rincorrersi per le iscrizioni, per fare la squadra, insomma c'era sempre un po' di malumore. E poi niente, secondo me quello che ha segnato poi alla fine di tutto è stato poi il fallimento dell'eccellenza, che comunque ha dato modo e possibilità a gente vera che voleva bene a Montevarchi di poter dare una mano, e adesso vediamo i risultati, e appunto di poter entrare e dare una grossa mano per far ripartire il calcio a Montevarchi, e di rivedere anche tanta gente allo stadio che prima magari si era persa, proprio perché sicuramente c'erano dei personaggi che non avevano fatto bene né a Montevarchi né a Montevarchini. La tua carriera di calciatore parte dunque dalle giovanili e poi arriva fino a quando sei stato in età adulta a giocare però fuori da Montevarchi. Ecco, raccontaci i primi anni da aver fatto il settore giovanile in una società come Montevarchi e poi esserti comunque ritrovato a giocare subito in campionati comunque a livello regionale ma importanti. E che effetto ha fatto il cambio dal calcio giovanile al calcio degli adulti? Beh, mi ricordo molto bene, insomma, questo passaggio, perché mi ricordo che io andavo a Montevarchi, che facevo il primo anno di Beretti, avevo compiuto 18 anni il primo gennaio, e mi ricordo che feci l'ultimo allenamento, era il 3 gennaio con i miei compagni della Beretti, e il giorno dopo ero già a Figline in eccellenza, pronto per quella nuova avventura. Il 6 gennaio subito esordio contro la Rignanese, quindi già un derby bello tosto, però la differenza è tanta, perché comunque già dalla prima volta che apri la porta allo spogliatoio entri veramente in un altro mondo, e lì veramente ti fai le ossa, ti fai le tue esperienze, e da lì poi prendi il via, se tutto va bene, come ogni ragazzo si augura, di andare più lontano possibile. E a Figline tu sei rimasto per 6 anni, ci dicevi, sì. 6 anni in cui hai appunto anche calcato i campi del calcio professionistico. E che differenza c'è stata per te fra giocare a Figline in eccellenza e trovarsi addirittura in Serie C, sempre con la stessa squadra? Sicuramente la differenza c'era prima a livello tecnico, perché comunque più su andavi di categoria e più trovavi giocatori, perché comunque ti avvicinavi sempre di più al calcio che contava. Sicuramente ogni anno vedevi che l'errore fatto l'anno prima ti costava sempre qualcosa in più. Quindi se in eccellenza ti potevi permettere di sbagliare 3 passaggi e prendevi mezzo gol, già in Serie D se sbagliavi 3 passaggi prendevi un gol. Andavi in Serie C, sbagliavi 3 passaggi e prendevi 2-0. Quindi già la differenza la fa quello, perché cambia la mentalità, cambiano i tempi di gioco, devi essere più pronto e concentrato. Io mi ricordo che quando giocavo appunto in Serie C, quando prima partita ero stremato, perché comunque mi accorgevo che la concentrazione, l'attenzione che doveva esserci, quello, allora, presupposto ci deve essere sempre in tutte le categorie, perché se no comunque puoi aver giocato anche in Serie A, ma se vai in terza categoria non sei attento, fa la figuretta. Quindi la concentrazione è la prima cosa. E poi comunque mi accorgevo che, essendo un altro livello, un'altra velocità, anche a livello di testa era tutta un'altra partita. E nella stessa società ci sono stati dei cambiamenti per voi calciatori da un punto di vista di allenamenti, di insegnamenti? Si è aggiunto qualcosa? Magari curavano di più quando erano in Serie C l'aspetto proprio mentale del calciatore? È arrivata gente nuova che vi insegnava cose nuove? Oppure è rimasto tutto uguale e le cose sono successe? A Figline, come è qui a Montemarchi, erano delle persone che sono partite dall'eccellenza, se non da prima, e sono arrivate fino alla Serie C. Un po' qui a Montevarchi il gruppo della società è partita dalla seconda categoria e tuttora è in mano alla società. Quindi le persone a livello societario sempre le stesse, se non che in Serie D e in Serie C è entrato qualche personaggio magari a dare una mano, perché comunque esperienza ce ne vuole, quindi è giusto anche che come giocatori anche le società più su vanno e più si devono anche loro migliorare, perché comunque è una cosa normale, secondo me non c'è niente di male, nessuno nasce che già può andare in Serie A, quindi è giusto che comunque come cresce un calciatore deve crescere anche la società. Quindi ecco, ti ripeto, venne qualche figura nuova nei professionisti, e dal punto di vista tecnico anche lì il mister era Leonardo Semplici i primi 4 anni. Mister è stato appunto per 4 anni, anche lui è andato sempre più a migliorare, perché comunque anche lui si aggiornava e quindi ci riportava sempre ogni tanto nuove metodologie di allenamento. E poi l'ingresso di giocatori che comunque hanno fatto categorie superiori ha portato tanta esperienza, solo da rubare anche con gli occhi. Quindi anche io che ero giovane cercavo di rubare il più possibile ai più vecchi, perché comunque avevo voglia di emergere, di farmi vedere, avevo voglia di arrivare, insomma. Quindi secondo me anche per un giovane è importante seguire all'interno dello spogliatoio delle figure da prendere di riferimento. E tra l'altro Semplici è arrivato in Serie A a allenare, se non erro, non so se esattamente sta allenando ancora o se sta esonerato alla SPA, no, c'è ancora. E tra l'altro con te giocava Anselmo Robbiati, aveva avuto un grande passato a Firenze e che ora, se non sbaglio, è allenatore proprio a Figline. Te vedevi già a quei tempi lì, che comunque Robbiati era probabilmente a fine carriera, che c'era un'inclinazione da parte sua anche per poter gestire una squadra dalla panchina in futuro piuttosto che in campo? Sì, perché già quando lui smise di allenare già iniziò a fare il secondo appunto a Semplici, quindi già veniva in panchina e dava una mano, e comunque già si vedeva che aveva l'occhio per fare l'allenatore. Poi l'esperienza non gli manca e sta facendo anche bene. Hai detto appunto Robbiati, ma ci sono stati anche giocatori come Chiesa, che è venuto dal Siena, e anche lui ha portato tanta ma tanta esperienza sia per noi giocatori, ma ha dato anche una grossa mano alla società, perché comunque anche la società, vedendo una persona così importante, con un passato così importante, con un'esperienza così importante, quando c'era da fare anche dei piccoli miglioramenti a livello logistico, chiedeva anche consigli a lui. Vi faccio un esempio: la palestrina lì vicino allo stadio è stata fatta grazie a lui, perché comunque lui è arrivato e ha detto: ma come, qui non c'è una palestra per lavorare vicino al campo? Grazie a lui ha dato una mano e ha trovato anche le macchine, insomma si è messo in moto, quindi è disponibilissimo, ha migliorato questo fattore B, che per una squadra, insomma, avere una piccola palestrina a bordo campo ti permette di fare gli allenamenti in un certo modo. Dopo l'esperienza di Figline hai un po' girellato prima di riapprodare a Montevarchi, quando il Montevarchi faceva la prima categoria. E tu, che avevi già vissuto le esperienze appunto con Robbiati, con Chiesa, la Serie C e anche la Serie D, e poi sei tornato a Montevarchi in prima categoria, che effetto ti ha fatto scendere così tanto e con quali stimoli sei tornato a Montevarchi? Tornare a Montevarchi, diciamo, io quella chiamata l'aspettavo un po', perché vedevo comunque a Montevarchi già si iniziava a rifare calcio in una certa maniera, anche se era un serie minori a me non mi importava, e quando fu chiamato da Tiziano Masucci risposi presente subito, perché comunque era un po' il sogno quello di giocare nella prima squadra del Montevarchi, perché comunque ho fatto tutte la trafila del settore giovanile con qualche allenamento in prima squadra, non ero mai riuscito a debuttare, e quindi tornai come un bambino felice e di corsa. Anzi, ho cercato di di portare tutto quello che avevo imparato e l'esperienza che ho vissuto prima, appunto stando accanto a giocatori importanti. Quindi nel mio piccolo, insomma, cercavo poi, e ho cercato nel corso degli anni, anche i miei compagni più giovani, più esperti, di confrontarmi sempre e comunque di mettere poi a disposizione quello che avevo. Tra l'altro, tornando un attimo indietro, prima di tornare a approfondire poi la tua carriera a Montevarchi, te con Montevarchi comunque ci avevi già giocato contro ai tempi di Figline, e che sensazioni provavi a affrontare la tua squadra del cuore, diciamo? Beh sì, come dico sempre io, diciamo, ho fatto sempre i derby dalla parte sbagliata, tra virgolette, perché comunque erano sempre, diciamo, sempre le squadre contro il Montevarchi. Facciamo un po' effetto il prima e un po' il dopo, perché poi quando poi andavo in campo cercavo di fare meglio per una squadra, come è giusto comunque ognuno faccia, ogni giocatore faccia. E niente, era particolare anche il pre-partita, perché comunque avendo tantissimi amici a Montevarchi, o comunque anche giocatori amici giovani a Montevarchi, era un po' bello anche prendersi un po' in giro sia il primo poi dopo. Quindi diciamo, vivevo la partita ai 90 minuti e poi comunque dopo si tornava tranquillamente a ridiscutere di quello che era stato. In qualche puntata precedente abbiamo avuto ospite Manolo Ermini, lui da San Giovannese Doc ci ha raccontato cosa ha provato a giocare a Montevarchi nei confronti dei San Giovannesi. E tu, che nella tua carriera hai pure vestito la maglia della San Giovannese, raccontaci un po' come sei stato accolto dai San Giovannesi in qualità di montevarchino e come ti hanno attenzionato il pubblico, gli spettatori di San Giovanni, proprio per questo fatto di essere tu un montevarchino. Sentivi più pressione oppure no? Allora, diciamo che all'inizio, quando avevo più giorni anche di preparazione, ogni tanto magari anche le battute ci scappava: ah, ma tu sei di Montevarchi, però mi raccomando, devi giocare per San Giovanni. E faccio sì, io gioco per la squadra dove sono, poi dopo, nel senso, ognuno fa il suo, tra virgolette. Però niente, anche il rapporto con i tifosi, mi hanno sempre visto, insomma, un ragazzo che si impegnava, dava sempre tutto, quindi nel senso, a quel punto di vista, anche con loro a volte capitava le scene di Natale, così, qualche battuta, però poi finiva sempre lì, perché comunque capivano che comunque in campo alla fine davo tutto, e come dicevo prima è giusto così. Però poi è bello anche di questo, appunto, essere di Montevarchi o comunque giocare anche le squadre, poi ci sta anche la battuta e anzi e rende anche la cosa più bellina. E qui a Montevarchi hai passato gli anni della ripartenza, della rifioritura, diciamo, della nuova società, e hai vinto due campionati, come ci dicevi in serie di presentazione. Quanto è stato importante per te avere questa nuova società che, come ci descrivevi prima, era da subito presente, da subito volenterosa a crescere? Anzi, quanto era importante per voi come squadra, e quindi quanto ha influito nell'avere un successo subito, rapido, seppur in categorie basse, ma che comunque forse era anche più complicato vincere, perché magari si dava per scontato, ma poi in campo uno deve sempre fare un gol più dell'altro e in classifica avere più punti di tutti per vincere. Aver avuto e avere una società così forte alle spalle è una cosa molto importante, perché comunque anche per il giocatore che viene e che fa parte di una squadra in cui sa che c'è una società strutturata con dei programmi futuri, oggi come oggi nel mondo del calcio non è facile. Quindi già sapere di avere una società forte alle spalle che ti supporta in tutto e per tutto è già un grande punto di partenza, e questo è già secondo me una buona percentuale di riuscita alla vittoria del campionato, perché poi, come dicevi giustamente te, le partite, ogni partita è una storia a sé, ogni campionato è un campionato a sé, e hai detto bene, non è stato facile vincere campionati soprattutto di prima categoria, dove non c'è il guardaline, gli arbitri sono da soli e comunque tutti ti fanno la guerra, perché tutti comunque vogliono fare bella figura nel Montevarchi, e te in Montevarchi devi essere ogni domenica non al 100%, al 110%, perché quegli altri ce la metteranno sempre un qualcosa più di te. Quindi è stato difficile, ma forse sta anche bello vincerlo, perché comunque poi anche la società, se aveva possibilità in quegli anni di poter comprare qualche titolo, perché comunque società che fallivano intorno c'erano tante e società che gli proponevano il titolo ce n'erano tante, la società secondo me ha fatto grande scelta quella di puntare invece sull'aspetto tecnico, quindi di formare squadre importanti e da lì piano piano risalire fino ad arrivare insomma oggi. E poi una società che ha come primo obiettivo quello di avere un settore giovanile fino all'occhiello, è una società veramente importante. La nostra trasmissione, che si prefigge lo scopo di cercare la montevarchinità laddove è un po' nascosta in giro per la città, e secondo noi il fulcro centrale è appunto lo stadio, mi porta a farti questa domanda. Tu che avevi giocato, come abbiamo detto, in categorie superiori, ma di fronte a pubblici inferiori rispetto a Montevarchi, che comunque, pur essendo in prima categoria quando tu tornasti a Montevarchi, aveva un pubblico che non ha definizione. Mi viene alla memoria ad esempio appunto la trasferta di Cortona, dove vincemmo il campionato della Nana e dei Rocchini, insomma, parliamo per un po' per ridere anche un po'. Addirittura in quell'occasione ben 1000 circa montevarchini si trasferirono a Cortona per vedere quella partita. Ora, per chi ascolta e non è delle nostre zone, diciamo Montevarchi e Cortona distano una cinquantina di chilometri più o meno, insomma un migliaio di persone per una partita di prima categoria. Quindi raccontaci un po' le tue emozioni, ma soprattutto in quegli campionati lì dove tu ti trovasti come compagni di squadra probabilmente fra i migliori calciatori per quelle categorie, ma che comunque avevano giocato fino ad allora esclusivamente in squadre appunto di quelle categorie, che effetto faceva a te personalmente, ma anche ai tuoi compagni di squadra, avere di fronte ogni domenica un pubblico sì numeroso e sì caloroso? Quella trasferta di Cortona appunto me la ricordo bene, perché comunque arrivare allo stadio, fare uscire per il riscaldamento e vedersi questo muro rosso-blu che si stava riempiendo sempre di più, ci fece veramente capire che comunque eravamo quasi all'obiettivo e che quella era la spinta finale per raggiungere il traguardo. E ha detto bene, noi ogni volta giocavamo in casa, perché comunque dove andavi eravamo sempre più noi che gli altri. E anzi, forse magari ogni volta che Montevarchi si spostava verso qualche altro paesino più piccolo, invogliava forse la gente ad andare allo stadio, e quindi si portava anche gente del posto che magari non andava mai allo stadio, perché solamente la domenica c'era il Montevarchi, e allora per loro poteva essere un evento, perché comunque era un evento, perché Montevarchi comunque non doveva stare in quelle categorie, era una categoria, dovevano essere solo state categorie di passaggio, ma che comunque secondo me hanno fatto anche bene alle altre squadre. E niente, avere un pubblico così caloroso, come dicevo appunto all'inizio, è veramente importante. Anche questo fa capire il lavoro che c'è stato a partire appunto dalla società, perché vuol dire che i montevarchini si sono aumentati allo stadio perché veramente hanno avuto tutto il bene che veniva fatto dalla società per questa squadra e quindi verso la città, perché comunque Montevarchi è dei montevarchini a tutti gli effetti. E in quegli anni lì effettivamente il Montevarchi giocò un po' il ruolo che giocò la Fiorentina nel famoso anno di C2, che si incontrò noi come Montevarchi, per cui la Fiorentina era una società, una squadra inusuale in quelle categorie, per cui si muovevano veramente in quel caso lì carovane di persone per andare a vedere la Fiorentina giocare con la squadra locale. Nel caso del Montevarchi in prima categoria, chiaramente con le dovute proporzioni, però in piccoli paesini era comunque, soprattutto giocando nell'Aretino dove c'era comunque una rivalità storica tra il Montevarchi e l'Arezzo, per cui tanti aretini o tifosi dell'Arezzo abitavano nelle frazioni. La trasferta di Alberoro. Ecco, la trasferta di Alberoro mi ricordo anch'io che fu parecchio sentita, diciamo. Fu movimentato. Ora, al di là di quello che è successo e per cui fu movimentata, di cui non parleremo, ma te da calciatore, aver visto tutto quel fermento in quell'occasione lì, cosa provasti? Cosa... Beh, mi ricordo bene perché ero da parte della tribuna, quindi me ne accorgo subito che c'è fermento. Però, come dicevo prima, perché c'era gente allo stadio, c'è fermento? Perché comunque Montevarchi aveva fatto dei pullman, erano 100-150 persone, più altre le macchine, in una piccola tribuna che era stracolma di gente. Come dicevi prima, c'era una grossa rivalità con i paesi d'Arezzo, e lì sicuramente c'erano anche tifosi un po' d'Arezzo infiltrati, quindi si venivano a creare dei meccanismi che comunque poi anche le semplici partite diventavano delle partite calorose. Saltiamo di palo in frasca dal calcio giocato al calcio allenato, perché la tua carriera di calciatore in campo è finita, hai appeso le famose scarpette al chiodo, ma un'altra carriera ti sei aperta, quella di allenatore, e tu infatti stai allenando insieme ad un altro montevarchino, doc, anche lui, Federico Corradeschi, se non erro, i Pulcini del 2008. Bene, allora la prima domanda che proprio mi viene da farti è questa: che differenza hai trovato fra giocare e allenare? Sono due mondi molto diversi, perché comunque quando giocavo io pensavo ad allenarmi, poi siamo nella squadra, cioè i meccanismi di squadra, l'allenamento, insomma varie fasi dell'allenamento in cui comunicare tra di noi, però alla fine era con la testa mia. Allenare significa invece entrare un po' nelle teste di 20-30 bambini che magari ognuno pensa a modo suo, agisce a modo suo, quindi cioè da entrarci un po' con punta di piede, soprattutto nei bambini, perché comunque ci sono meccanismi davvero sottili che in un gruppo di bambini di 10 anni è importante mantenere certi equilibri. Però è bello, diciamo, all'inizio ero un po' scettico, perché comunque conoscendomi per carattere che ho io, magari era anche una sfida, insomma, iniziare questa avventura. Mi è stata data questa possibilità, e infatti ringrazio, insomma, la società, che l'anno scorso affiancavo Max Adami, ex portiere Montevarchi, con il 2004. Invece quest'anno, appunto, come hai detto giustamente te, sono con Federico e abbiamo un gruppo nostro di bambini 2008. Sono 30-32 bambini, insomma, un bel gruppo. Poi dipende, perché è iniziato ad agosto e comunque vederli piano piano crescere, vedere che piano piano un po' apprendono quello che uno cerca di insegnargli, è veramente bello, ecco. Poi alla fine i bambini, anche se non ti dicono con le parole, però ti trasmettono tanto con i gesti, con il loro comportamento, e ti dico, insomma, ora sono veramente felice di aver iniziato questa attività, insomma. Ma rispetto a quando te eri un bambino della scuola calcio, perché l'hai fatta comunque a Montevarchi, quale differenze vedi tra il te bambino di qualche decennio fa e i bambini che oggi alleni? Le differenze erano, diciamo, si può parlare un po' in generale delle generazioni. Se magari quando giocavo io era la mamma che mi doveva venire a prendere alle 8 per tornare a casa, perché dal campetto non venivo via neanche con le fucilate, magari ora sono le mamme che cercano di buttare fuori i bambini di casa perché magari troppo attaccati a questi mezzi tecnologici. E vi dico anche, comunque, avere un gruppo di 30 bambini invece mi fa pensare che allora c'è tanti bambini che veramente hanno voglia di stare all'aperto, di giocare, di divertirsi e di fare nuove amicizie, perché comunque è anche soprattutto uno sport di squadra che comunque aiuta i bambini sia da un punto di vista motorio e sportivo, ma li aiuta soprattutto da un punto di vista della vita, perché comunque partecipare e far parte di sport di squadra sono cose poi in avanti ti aiutano sicuramente, e io l'ho riscontrato, insomma, anche nel lavoro. Il vostro lavoro, appunto, insieme a questi ragazzi, non è solo quello di insegnargli a calciare un pallone, a magari al portiere ad uscire bene quando le palle sono alte, ma è proprio anche un lavoro per insegnargli a stare insieme alle altre persone, a socializzare, appunto. Quindi non è solo l'aspetto tecnico, ma è proprio anche l'aspetto umano che sembra emergere da questa tua nuova esperienza, giusto? Esatto, soprattutto poi in queste categorie dove giustamente con un bambino di 10 anni puoi affrontare, cioè devi usare anche i giusti termini per insegnargli le cose. Quindi, prima di tutto, noi quello che chiediamo è il comportamento dei ragazzi, perché comunque devono avere un comportamento corretto, devono essere rispettosi verso di noi, ma soprattutto tra di loro, perché comunque, come dicevo prima, devono imparare a stare insieme in gruppo. Devono capire che comunque quando fanno parte di un gruppo ci sono determinate regole e che comunque non si può fare come si vuole, sennò altrimenti sarebbe un grosso problema. Quindi, appunto, prima di insegnare, di cercare di insegnargli aspetti tecnici, cerchiamo anche di aiutarli, insomma, nella crescita di loro, insomma. E ora una curiosità: a Montevarchi, quindi nella squadra che voi state allenando, ma anche nelle altre squadre che incontrate di volta in volta, È vera questa storia che ci sono i genitori durante le partite dei bambini che urlano, che magari a volte offendono? Addirittura su internet si vedono video di genitori che durante le partite dei figli fanno a cazzotti fra di loro, insomma, spettacoli alla fine poco edificanti. Questa cosa si verifica, si è verificata anche nella tua esperienza fino ad oggi, oppure per il momento sta in un'isola felice? No, allora, per quanto riguarda esempio i nostri genitori, il gruppo dei nostri genitori è un gruppo veramente un bel gruppo, insomma. Per quanto riguarda invece a giro, ti posso dire che è capitato raramente grosse cose, anzi per fortuna, perché comunque non sarebbe anche un bello spettacolo, quindi per fortuna è capitato veramente pochissime volte. È capitato magari più volte vedere allenatori invecchiare un po' troppo verso bambini di squadre avversarie, e quindi magari quello, ecco, magari mi può dare un po' fastidio. Però poi, come dice, ogni allenatore ha il suo metodo, quindi ognuno guarda a casa sua, e nel senso, non giudico, perché solamente nel senso, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, ecco. Che poi tra l'altro avrei una curiosità anch'io da domandarti su questo aspetto, sull'aspetto dei bambini di oggi. Secondo te quanto sono influenzati da degli esempi che magari vedono in televisione, quindi dai grandi calciatori? Cioè quanto in loro c'è l'idea di ispirarsi, che ne so, all'Amsic o al Totti della situazione? Magari se lo vedi che cercano di replicarne le movenze o gli atteggiamenti, oppure ancora sono talmente giovani che comunque giocano per il puro piacere di giocare? Allora, sono sicuramente bambini che giocano per il puro piacere di giocare, ma sognatori, come giusto siano. Perché comunque ti posso dire che quando si fa le partitelle, quando fa l'esultanza, la riconosci subito di un giocatore piuttosto di un altro. Quindi ti dico anche che comunque sono ragazzi che stanno attenti e guardano tanto quello che ci propongono i grandi campioni. Forse anche perché oggi, con appunto l'avvento di questa tecnologia, è più facile anche per loro accingere a queste informazioni. Mentre magari quando c'ero io, per prima partita aspettavo il mercoledì la Champions League su Canale 5, mentre oggi magari vai al telefonino della mamma e ti vedi tutti i gol su YouTube del campione che vuoi. Quindi sicuramente è anche più facile per loro reperire queste informazioni, però ecco, giocano perché sono puri, ed è bello anche per giocare perché sono ovviamente la cosa pura del calcio, però dei grandi sognatori, e lo devono essere, insomma. Torniamo un attimo al calcio giocato da Francesco. Ma tu ce l'avevi una scaramanzia, un rituale che mettevi in pratica prima dell'inizio delle partite, oppure no? No, erano diversi, avevo. Adesso li devi raccontare a tutti, perché è una tradizione della trasmissione. No, vabbè, si parte dalla mattina, il solito vestiario, le solite mutande, le solite calze, al solito costume, la solita maglietta termica da indossare durante la partita, oppure nello spogliatoio, da quando iniziamo a preparare, da andare a salutare prima tizio, fuocaio, cosa imbrogno, fino ad arrivare in campo, che magari devo essere il numero 3 della fila, per intendersi. Diciamo, mi hanno sempre accompagnato e comunque mi facevano anche compagnia, perché comunque ti davano il pizzico di brio della partita. Poi è chiaro, sono quelle cose che comunque uno non è che si deve fissare e dire oh, oggi non c'ho il costume, magari perdi la partita per davvero e dai colpa il costume. Però sono quelle cose che fanno parte di, insomma, della vita sportiva e che comunque danno quel pizzico in più di carica, di brio. Ma senza far nomi, o anche sì, come vuoi, cioè, la scaramanzia più bizzarra che hai visto da parte di un qualche tuo compagno nella tua carriera? Ma la forse bizzarra è di un giocatore che praticamente quando entrava in campo saltava con un piede a zoppino la linea del fondo campo e poi si faceva la croce. Entrava sempre per ultimo e entrava in campo sempre in questo modo qui. Sempre rimandiamo alla memoria degli nostri ascoltatori che non sono di Montevarchi e che magari non conoscono la carriera di Francesco. Tu, Francesco, quando giocavi eri un difensore esterno, giusto? Esatto. Non so se ti sarà mai capitato, partendo da così lontano dalla porta avversaria, di farlo, ma se lo hai fatto, un gol con la maglia del Montevarchi, te lo ricordi? Oppure se ne hai fatti più di uno, qual è stato il più bello? E se non ne hai fatto, qual è stata la partita che più ti ha emozionato giocare? Gol, di verità, ne ho fatti poi quasi zero, se non zero. Quindi, diciamo, mi ricordo più che altro azioni che poi hanno scaturito magari il passaggio, il cross, l'ultimo cross per il gol. Quindi mi viene in mente una partita a Prato Vecchio, vinta 1-0, su un'azione insomma sviluppata tutta la squadra, e poi ho concluso io con un cross per il gol di Sguera in tuffo di testa. Poi mi ricordo anche altre azioni, come può essere la partita quella poi in casa con il Prato Vecchio, diciamo azioni, diverse azioni ce l'ho nel cuore, e le partite comunque mi sono rimaste un po' più impresse per tutto l'andamento che avevano poi e l'importanza per l'annata, sicuramente quella di Cortona e quella in promozione in casa con il Grassina, quella di Vibiena la domenica dopo, perché lì sorpassavamo il Vibiena perché eravamo secondi o terzi, in quelle due partite andavamo primi, e poi quella con il Prato Vecchio, la vittoria del campionato, per tutte le emozioni che mi ha regalato. Benissimo Francesco, siamo addirittura d'arrivo, quindi io colgo l'occasione per ringraziarti di averci onorato della tua presenza, dei tuoi ricordi, della tua montevarchinità, perché comunque di questo si parla e questo rappresenti. Colgo anche l'occasione per ringraziare il nostro fresco vincitore di Oscar, Guglielmo del Toro, che ci ha portato la statuina qui e ora appena va in bagno la rubo e me la porta a casa, la rivendo domani su eBay, quindi controllate, magari se la trovate ve la vendo anche a poco. Fumino, un saluto anche da parte tua. Grazie Julian, un saluto anche da parte mia, sì, a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, un ringraziamento personale a Francesco Pasquini per essere stato con noi questa sera, ospite ai nostri microfoni. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Quindi dichiariamo conclusa qua la puntata di stasera e ci diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana, come sempre in compagnia del mio fido compagno di viaggio, appunto Julian Carax. Grazie. Buonanotte a tutti. Non rinviate alcuno, certo. San Giovanni non si è capito nemmeno perché è una giovata. Cazzo, ma non ha smesso di neviare il giorno dopo, non c'era più la neve, io non lo so che senso ci può essere, però se non avevi in voglia tempo per magari recuperare. Sì, perché poi io pensavo l'avessi chiesto il Sasso Marconi, invece hanno chiesto loro, lo dice anche Volpi, lo trovai ieri sera. Non hanno chiesto loro per questa storia da me. Bah. Ah, un'altra cosa che scordavo prima, non per presunzione, ma un altro grande allenatore ho avuto, ma soprattutto gran persona, Torricelli, Moreno Torricelli, che comunque anche lui mi ha aiutato tanto a crescere, ma anche soprattutto dal punto di vista umano, insomma. Come erano anni d'oro quelli a figline, Dio buono. Sì, cioè. Sì, sì. Tra l'altro sarà che mi ricordo anche io e lui proprio, dai, proprio davanti andò su, sì, con una birra in mano, successo, cioè, ma no, e poi te probabilmente te di là e poi fu fermata la partita per questa, sì, una roba incredibile, era perché vuoi perché il tizio finì proprio sulla rete, se non mi sbaglio, non quello l'ha prese bene, successo un po' di Roma, vabbè, sono cose che possono capitare. No, per dire anche ora. C'eri, quando sei giocato a Pergine in seconda, sei giocato anche a Pergine, mi ricordo, cioè, ci sei giocato nulla, due volte, tutte e due le volte in seconda successe nulla, ma se andò a pranzo al ristorante del cacciatore, cioè, la polizia ci faceva la scorta, cioè sembrava andare poi tu finì, cioè, in un campo c'era greppi per la partita, sembrava di essere scortati per andare al ristorante, cioè, sti mangiano senso, troppo senso. Guglielmo del Toro. Guglielmo. Guglielmo, non Benicio. Ma io oggi pensavo fosse Benicio, quando l'ho letto. Benicio del Toro. Benito. No, stiamo fermi al dittante di questi momenti. Adesso a tornare. Dai. Con una nuova puntata della serie Ti racconto una scuola. Scuola di polizia. Scuola di ladri. Io però, insomma, questa storia delle mutande ce la dicono tutti. Ma ora, te in particolare, perché male la tua esperienza, però quell'altri mutande pulite o sudici? Cioè le lavavano queste mutande o no? Allora, anch'io erano mutande, comunque ogni domenica poi sono a rappresentare pulite. Ah, ecco, magari, pulite, ecco, le mutande erano pulite. Magari potevano arrivare in fondo del campionato, qualche bua che era dopo, quindi potevano partire belle spendenti, arrivare alla fine dell'annata che erano poi tutte buerellate. No, però uno dice, però almeno c'ho sempre le stesse mutande, alla fine c'è una sgommata. No, all'ultima giornata sono un fossile praticamente. Dio. No, e quando tu giocavi a Figline praticamente non c'era, cioè quanta gente c'era per la partita? Allora diciamo che a Figline in quegli anni anche la gente piano piano è cresciuta come crescevamo noi come squadra e come categoria, perché comunque cresceva l'interesse della gente verso anche grosse squadre fino a Figline, comunque che giocatori alla fine giocatori appunto che venivano e che giocavano domenica, allora portava interesse e portava anche gente allo stadio. Sicuramente Figline non è paragonabile a livello sportivo con Montevarchi Sportiva, perché comunque i tifosi di Montevarchi hanno una storia, hanno una tradizione che comunque si portano dietro da tanto tempo, avendo fatto per tanti anni categorie importanti, mentre Figline si affacciava a categorie importanti magari con tifoseria normale, dirigenti di sportivi, ecco, quindi sicuramente la grande... Gli sportivi del paese, esatto, gli sportivi del paese, ecco, sicuramente la grande differenza è questo. Poi comunque la parte fuori onda, ma no, te lo voglio spiegare, che se no si passa da strulli noi. No, perché questa storia di regista, Vitor, si è detto Guglielmo Tola, perché noi tutte le volte lui non si dice come nome, gli si inventa puntava per puntare un regista, no, ora no, stasera è venuto fuori, no, perché se no torna a casa e dice, ma ci stavo con tre malati di mente, l'Oscar e Guglielmo Tola, ma cazzo, no, voglio dire, perché se no davvero si passa da tocchi in capo. Che poi, ma Guglielmo Tola sarà fratello di Benicio. Ma io pensavo fosse Benicio. E poi Benicio. Benito in italiano, il nome sarebbe Benito, come la buonanima. ci mette una bomba alla stanza in neri. L'epocuccia ora fa simpatici, no, comunque. Vabbè.